ore 9:18 di lunedì 17 gennaio 2005. Tornano le registrazioni in diretta dopo una piccola digressione. Sabato scorso è andata in onda una vecchia registrazione che effettivamente fa un po' strano perché è una registrazione di agosto del 2003 addirittura. Il clima era completamente diverso, anzi stamattina il display della Xara patriarcale parlava senza mezzi termini di strada ghiacciata, e credo che nel weekend dovrò conformarmi all'idea di pubblicare materiale d'archivio, perché in tutta franchezza è un po' difficile prendere in mano questo piccolo registratore nei giorni in cui giustamente devo dedicarmi alla famiglia. E poi obiettivamente l'atmosfera non è ideale, non c'è lo stesso clima opprimente del lavoro che è il clima ideale per Tendo Deliri. E va detto che con il gelo tutto il paesaggio assume un aspetto leggermente più dignitoso e il becerume gioca un po' a nascondino. Chissà, forse è una questione di condizionamento culturale, nel senso che siamo abituati a immaginarci i paesi nordici come paesi particolarmente ordinati, quindi associamo il freddo all'ordine, questo è una tara evidentemente. E ho trascorso durante il weekend qualche mezz'ora ad ascoltare i ben più lunghi podcast dei colleghi podcaster italiani che stanno facendo veramente un ottimo lavoro, a cominciare dai pionieri di Quix, che forse sono i più seri, i più professionali, hanno un ottimo mixer, un ottimo livello tecnico e anche una certa serietà nei contenuti. È abbastanza fatale che la tecnologia entri di traverso in tutte le loro discussioni. Poi io credo che la loro comunità sia davvero un ottimo punto di riferimento per chiunque intenda fare cose molto più serie, per intenderci, di quello che faccio io. E poi anche invece sul fronte del pure entertainment ho ascoltato con grande sollazzo le digressioni dei colleghi di Caffè Nichilismo, in particolare la puntata sul Capodanno, e tutte le assurdità, le code create d'arte fuori dalle discoteche. Io credo che siano tematiche anche sociologicamente di rilievo, oltre che divertenti. E poi per finire con K-Mag, con questa trasmissione dedicata ai gadget, dedicata alle novità, ai trend, di cui probabilmente si sentiva la mancanza, nel senso che sui broadcast tradizionali è una tematica molto molto condizionata dai vari marchettari che con i loro potenti uffici stampa influenzano queste uscite, influenzano queste notizie. Il fatto di avere una voce assolutamente indipendente non può che farci piacere. E mentre percorro via Anton Giulio Bragaglia, siamo abbastanza ancora dalle parti di casa mia, oggi sono uscito un po' in ritardo, qualche riflessione sul clima politico, soprattutto sullo squallore di queste trattative preelettorali. Io cerco per quanto possibile di estraniarmi, non comprando giornali stampati e soprattutto non seguendo i media italiani, che purtroppo sortiscono l'effetto inverso rispetto all'essere informati. Però non posso completamente esimermi dal commentare le uscite di Rutelli sul ripudio dei concetti di socialdemocrazia e di egualitarismo, che devono essere considerati evidentemente concetti superati. Ma io credo che un personaggio come Rutelli possa permettersi di dire una cosa del genere soltanto quando avrà fatto qualcosa di rilevante, come hanno fatto i suoi colleghi ben più illustri come Willy Brandt, che all'inizio degli anni 70 andò a inginocchiarsi e a chiedere perdono di fronte al monumento dei martiri del ghetto di Varsavia, chiedendo perdono e assumendosi la responsabilità di un intero popolo essendo lui, udite udite, uno di quelli che invece era andato sulle colline a sparare contro i nazisti. E questo io credo che sia qualcosa che da un politico italiano non vedremo mai fare, almeno nei prossimi 50 anni, e meno che mai da Rutelli, che al quale si possono riconoscere meriti di amministratore locale. Io sono abito a Roma, e sicuramente quando lui è stato sindaco le cose sono migliorate, però dal punto, come statista, ecco, io credo che la prima virtù sia quella di essere coerenti con le proprie idee, e da Rutelli, insomma, che è nato nel Partito Radicale con tutte le varie cause e battaglie anticlericali, e poi passato attraverso la sinistra, si è dovuto fare accettare a sinistra con, diciamo, aderendo ad alcune forme dell'integralismo laico, per così dire, quindi è passato da un anti-integralismo a un integralismo laico, poi da sindaco di Roma ha cominciato a fare evidentemente amicizie importanti anche nel mondo cattolico, e oggi è alla guida della principale formazione politica di stampo democristiano, mi sembra a questo punto che si possa dire, dopo le dichiarazioni di ieri, e da un personaggio di questo tipo io francamente non accetto critiche al concetto di socialdemocrazia. Sull'egualitarismo invece magari si può discutere, finché si parla di egualitarismo becero come quello dei Leverless inglesi, posso anche starci. Il problema è che l'egualitarismo è un concetto molto più ampio e molto più nobile, che riguarda per esempio l'eguaglianza dei diritti, che è forse uno dei principi, una delle conquiste più a rischio nel berlusconismo e in tutte le sue forme più squallide che siamo costretti a vivere sulla nostra pelle. Vorrei proseguire sul Partito Radicale, ma credo che ne parlerò domani perché sta diventando un po' troppo lungo anche questo stupendo delirio.